Time Out di Luca Mastrantonio. Ultime notizie canterine dal mondo degli spettacoli per beneficenza. Fine agosto Fiorella Mannoia e Renato Zero hanno fatto un concerto alla Perdonanza e hanno ricordato che vigileranno sui soldi raccolti per L'Aquila delle Amiche, per l'Abruzzo e dal CD Domani. A fine agosto Nicolò Fabi ha elaborato il lutto per la perdita della sua piccola con un concerto di beneficenza assieme a Baglioni, Max Gazzè e altri colleghi, i cui soldi andranno ad un ospedale pediatrico dell'Angola. Ma in fondo 25 anni fa, il 13 luglio dell'80, è nato questa grande epopea dei concerti per beneficenza, con il Live Aid organizzato da Bob Geldof, che ha sensibilizzato le coscienze di tutti noi per l'Etiopia e i problemi dell'Africa nera. La BBC festeggerà questa ricorrenza con una serie TV, ma allo stesso tempo la BBC qualche mese fa ha raccontato con un'inchiesta come purtroppo le ingenti quantità di soldi che sono state raccolte da Bob Geldof poi sono finite anche in molte mani sbagliate. E Haiti, ricordate il terremoto che ci ha commosso la popolazione mondiale, ha attirato anche star di Hollywood che hanno fatto veramente un campionato di beneficenza, una specie di Teleton, George Clooney e il rapper dei Fugees Wycliffe Jean. Bene, Wycliffe Jean si era candidato per le presidenziali di Haiti di novembre, ma è stata bocciata la sua candidatura perché non risiede da 4-5 anni in questo paese. E allora però quanto sono affidabili alcune di queste star che sembrano fare della beneficenza poi una professione? Benvenuti a Time Out, io sono Luca Mastrantonio e questa mattina, come ogni mattina, sabato e la domenica su Radio 24 alle 9:30 ci prenderemo un break, un time out, per capire, questa volta, se i concetti di beneficenza che seguiamo tutti con grande apprensione, con grande trasporto, poi producono degli effetti reali. E sull'Aquila, in fondo, alcuni dubbi erano venuti già tra le amiche per l'Abruzzo in Loredana Bertè, che alla conferenza ha fatto un piccolo show. Oppure arrivano medicinali scaduti? Possiamo formare anche la delegazione che le accompagna e glieli dà. Non solo le chiese, però, perché cominciano prima dalle chiese. Non si preoccupano, tutto. Cominciamo dalle case, anche perché dove vogliono. Il 21 giugno a Milano, a San Siro, al concerto Amiche per l'Abruzzo c'era anche lei e cantava l'indimenticabile hit degli anni 80, Non voglio mica la luna. Ed è con noi Fiordaliso, buongiorno. Ma buongiorno, indimenticabile serata, pomeriggio, come la vuoi mettere. Esatto. È stato uno dei momenti più belli della mia carriera, ti dico la verità, è stato molto emozionante. Ecco, raccontaci, ci racconti queste emozioni, perché insomma... L'emozione era perché eravamo in tante, chiaramente, con tante canzoni da fare, e io ero prevista verso le 6 e ho detto boh, secondo me non c'è nessuno quello. E invece hanno aperto i cancelli alle 3, è cominciato ad arrivare una fiumana di gente pazzesca ed è stata una grande emozione vedere San Siro pieno. Avete anche sfatato un mito poi, perché in genere tra donne, soprattutto tra quante erate, dei 50 insomma, prime donne, sì, di ieri, sì, di oggi e di domani. Il mito è stato sfatato, ma quando le donne fanno una coalizione, che si vogliono mettere insieme, a parte le altre cose che possono essere di uomini, siamo molto forti. Cioè, secondo me non ce n'è come quando le donne si mettono in testa di fare una cosa assieme, perché si tocca la sensibilità, l'intelligenza e tante cose che un po' gli uomini queste cose le sottovalutano. E quindi diventiamo veramente una corazzata Potionsky. Ecco, poi alla conferenza ci furono però anche delle scintille, la Bertè che diciamo... Ma io guarda, la conferenza me la sono persa perché stavo lavorando, però me l'hanno raccontata. Ma sai, Loredana è sempre molto colorita, è il suo modo di essere, Loredana ci piace proprio perché è così. E diceva anche delle cose giuste, però diceva poi chi ci assicura che i farmaci che arriveranno non saranno scaduti, che verranno costruite le scuole, non solo le chiese. Guarda, cioè un artista che problemi si pone quando deve mettere la faccia su un'iniziativa di beneficenza? Ricordo nell'86 lei fece anche Cantando per la mamma un disco con Le Ali Pupo, sì, per l'istituto, sì, di ragazze madri del, sì, fanciullo abbandonato di Milano. Ecco, noi gli abbiamo proprio dato i soldi di nostra mano e punto primo. Punto, cioè, voi secondo, fisicamente siete andati... Sì, fisicamente gli abbiamo proprio dato i soldi noi, delle vendite del disco, questo me lo ricordo benissimo. Qui invece uno si deve un po' fidare, invece, ha visto i maschi, Jovanotti si è preoccupato, dice ma questi soldi dove sono finiti? No, beh, io mi sono fidata principalmente di Laura e ti posso assicurare che quando abbiamo fatto la puntata di Matrix, vedendo Gianna e Fiorella, addirittura Fiorella Mannoia che fa parte del ministro delle finanze di questa associazione, sono belle toste, belle dure, i soldi sono fermi lì e addirittura loro sono molto arrabbiate perché non li schiodano sti soldi per poter fare quella cosa che vogliamo fare noi. Io sono sicura che questi soldi sono sotto diretto controllo di queste 4-5 artiste e credimi che non si perderanno neanche 5 lire, io di questo ci metto la mano sul fuoco e sono veramente lì come dei cani mastino, quindi non ci piove, siamo proprio tranquille, anzi sono molto incazzate perché non si riescono a farli funzionare, questi soldi sono fermi lì, bloccati e uno si tira la palla con l'altro, no è colpa tua, no è colpa sua e ancora non siamo riusciti a fare quello che dobbiamo fare. Però attenzione perché sono... Sai le donne arrabbiate come sono, no? E cosa fanno? Ecco. No, no. Ti ricordo la Bobbit. Ah, quindi il ministro Bondi e soprattutto il commissario Chiodi devono stare attenti. Che sennò faranno la fine della signora... No, Bobby. Ti ricordo, bravo. Ma il povero Bondi. E chi se ne frega, qualcuno qui deve pagare, pagherà lui diretta. E insomma, questa è un finale venusiano e beh, ascolteremo. Abbiamo la Marcegaglia, ci sarà un perché? Ci abbiamo una donna che è ministro degli industriali, quindi la cosa sulle finanze le saprà fare, no? Esatto. E noi siamo tutte donne, ci sarà un perché su questa cosa, no? Siete delle, e delle... quindi siamo super, cioè controlliamo tutto. Quindi la Mannoia è la vostra Marcegaglia su questa. Certo. Benissimo, ringraziamo Fiordaliso di essere stata con noi a Time Out, grazie. Ciao. Non voglio mica la luna, ma voglio solo. Il vero problema è sapere dove andranno a finire i soldi dei concerti di beneficenza, degli album che vengono venduti, spesso con una dicitura, quasi con un francobollo, come l'album Domani di Jovanotti & Company, 56 artisti, che aveva una chiara dicitura per la ricostruzione del conservatorio Alfredo Casella. Si erano un po' perse le tracce poi di questi soldi. Jovanotti ha scritto alla stampa quest'estate al ministro Bondi chiedendone ragione. Bondi ha detto che i soldi sono nella disponibilità del presidente della regione Gianni Chiodi e noi, per tagliare la testa al toro, abbiamo chiamato il direttore del conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila, Bruno Carioti. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ci racconti a che punto siamo? Questi soldi sono nella disponibilità del conservatorio, degli enti pubblici? A che punto siamo? Questi soldi di cui, a cui faceva accenno lei sembra che siano nella disponibilità di Bondi e quindi del commissario Chiodi. Noi abbiamo nella nostra disponibilità 1 milione di euro che ci è stato dato dalla SIAE attraverso un atto notarile, quindi di quelli noi ne possiamo disporre immediatamente. Abbiamo i fondi che sono stati accreditati al conto corrente del conservatorio, attivato appositamente per raccogliere le offerte. Non abbiamo traccia dei soldi perché sono stati raccolti con il concerto quello famoso di Bocelli al Colosseo e abbiamo traccia invece di questi soldi che erano stati raccolti dalla provincia di Roma e che sono stati girati alla provincia dell'Aquila. Ah, quindi mancano all'appello per ora questi del concerto con Bocelli? Esatto, delle cose che questi di Bocelli sembra che siano stati versati nel grande contenitore degli aiuti così più generici, però francamente se sono stati dati e sono stati raccolti con la finalità specifica di aiutare il conservatorio, presumo che debbano essere spesi esclusivamente per quella finalità. Il problema è che si partiva da un presupposto sbagliato, probabilmente il ministro Bondi è stato informato male, nel senso che il ministro partiva dal presupposto che essendo il conservatorio all'interno della zona rossa non ci sono le condizioni per poter spendere immediatamente questi soldi e quindi allora, visto che non si possono spendere per quella finalità, si spendono per altro. Ecco, io ripeto, il presupposto è sbagliato perché il conservatorio era la vecchia sede era al di fuori della zona rossa perché era nel convento di Collemaggio, quindi nulla osterebbe a iniziare i lavori o di ristrutturazione oppure di ripensamento di un'altra locazione. Se assolutamente, non c'è nessun motivo, perché cioè, sulla ristrutturazione io personalmente nutro molte perplessità. In questo momento all'Aquila, dopo quello che è successo, non hai i requisiti minimi per poter essere riutilizzata come tale struttura, però questa è una cosa è una cosa più tecnica che secondo non tempo. Mi auguro ovviamente. Il primo tempo però è chiaro, non è nella zona rossa, quindi nulla osta all'utilizzo di questi soldi, e voi temete che possano anche finire ad un'altra destinazione per qualche incomprensione, certo, il certo. vostro referente è il commissario, è il presidente della regione. È il presidente della regione, ecco, Chiodi, esattamente. Avete fatto presente, avete avuto dei feedback? Io ho avuto un colloquio con il presidente Chiodi nel quale gli ho espresso la mia intenzione di spendere anche il prima possibile questi soldi, per esempio quelli di cui io ho a disposizione personalmente in questo milione della SIA, e mi sono offerto di comprare l'area, qualora fosse stata individuata e ci fossero problemi di acquisizione dell'area, perché già con questi soldi si potrebbe comprare l'area e dare avvio alla fase di progettazione di una sede nuova del conservatorio. È una risposta da parte del governatore? C'è stata? Noi avevamo individuato una zona particolare, che è una zona estremamente bella, ma anche dal punto di vista logistico estremamente interessante per il conservatorio, perché si avvicina al termine di Collemaggio, che era la collina dell'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio. Acquistare l'area e dare inizio alla progettazione, perché con 2,5 milioni di euro penso che queste due cose si possano fare. E la risposta di Chiodi qual è stata? Perché lei si è portata avanti, insomma. Sì, io ho parlato con Chiodi, lui ha detto che per quanto riguardava Collemaggio c'erano dei problemi di carattere giuridico, formale, perché quell'area sarà destinata, messa nel piano di rientro del deficit della regione Abruzzo, per il deficit sanitario, e quindi quell'area deve essere venduta a privati. Ma io ho detto i soldi che vengono dalla SIAE sono di fatto dei soldi che vengono da privati, perché quelli sono stati destinati dagli autori di musica, quindi sono diritti. Quindi la prossima mossa quale sarà? Perché questa era il suo desiderata, ma ci sembra che sia stato stoppato. Io reitererò ulteriormente una richiesta di convocazione di una conferenza di servizio, nel quale mettere intorno a un tavolo, che questo non sono riuscito ad averla, il comune, la provincia, la regione, il conservatorio, per individuare quantomeno il luogo dove fare il conservatorio. Qual è lo stato di salute del conservatorio? Guardi, noi abbiamo avuto un risultato assolutamente inaspettato, perché noi l'anno scorso abbiamo avuto il 25% di domande in più rispetto all'anno precedente, nell'anno dopo il terremoto, e abbiamo un 10% circa di iscritti in più rispetto all'anno precedente. Concluderei quindi, direttore, con un appello che rivolgiamo, che può rivolgere al presidente Chiodi, perché se non sarà l'area di Collemaggio un'area da destinarsi per spendere questi soldi, visto che non siete in una zona rossa, forse certo. Va trovata prima che si perda questo patrimonio anche di entusiasmo da parte degli studenti. Assolutamente, no, io su questo ci tengo moltissimo, rivolgo un appello in questo momento al presidente Chiodi, lo farò anche per iscrivermi nei prossimi giorni, perché intendo proseguire questa mia idea, cioè di fare del conservatorio anche un luogo di concentrazione e di socializzazione fra i ragazzi. Con uno slogan, Collemaggio resti agli Aquilani, potrebbe assolutamente, Collemaggio resti agli Aquilani, Collemaggio resti alla musica, cioè il conservatorio era stato lì a Collemaggio, ha mandato questa svolta a quell'area di forte interesse culturale dal punto di vista architettonico e storico, e le stavamo facendo diventare anche dal punto di vista musicale, perché il conservatorio è una struttura estremamente viva, cioè abbiamo fatto tante cose. Secondo me sarebbe una fortissima spinta, una molla per il rilancio dell'Aquila. Benissimo, noi la ringraziamo, Bruno Cariotti, direttore del conservatorio, Alfredo Casella, di essere stato con noi. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Time out. Siamo in collegamento con uno scrittore e autore di un saggio, Questo è il paese che non amo, uscito per Minimum Fax quest'anno, Antonio Pascale. Buongiorno Pascale. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Il sottotitolo di questo libro, l'Italia, 30 anni d'Italia senza stile, uno si aspetta i soliti riferimenti alle televisioni commerciali, a Berlusconi, invece lei ha spiazzato tutti i suoi lettori con una data, quella del 1985, il Live Aid di Bob Geldof. Ci spieghi perché lì è iniziata in fondo la nostra Italia senza stile? Lì è iniziata un po' la mia così comprensione del mondo, quindi ovviamente anche dell'Italia, che è il mio paese. E quel concerto fu molto importante per me, ragazzino, avevo 19 anni, perché sì, oltre a vedere le immagini dei cantanti che amavo tantissimo, ma che mai avevo visto dal vivo, fu indotto un po' da tutta l'organizzazione dell'evento a prendere atto che esisteva una realtà drammatica in Etiopia. E quindi per la prima volta, credo, in maniera massiccia furono mostrate le immagini della sofferenza di quei bambini a scopo appunto di indurre le persone a versare un obolo. E io lo feci, non solo lo feci, ma pensai anche che l'arte che avrei voluto intraprendere, il cammino dell'arte che avrei voluto fare, doveva avere questo obiettivo, cioè pensare alle persone che soffrono, cioè occuparmi della sofferenza. Quindi quel concetto fu importante per questo, tant'è vero che io già a 20 anni, siccome le immagini dell'Africa cominciavano a concretizzarsi a Caserta, la città che abitavo, allora presi atto che bisognava fare qualcosa, e dunque con degli amici mettemmo su un'associazione che doveva interessarsi un po' di questi problemi, cioè trovare un modo per mitigare la sofferenza dei senegalesi che arrivavano lì. E qui però ebbe una sorpresa. A un certo punto di questa storia, un giovane amico, un senegalese, si chiamava Mustafa, mi disse: "Ma noi non ve l'abbiamo chiesto. Nessuno di noi vi ha chiesto di parlare per bocca nostra della nostra sofferenza." E citò tra varie forme, secondo lui, inquinanti, proprio l'AIDS. L'AIDS, secondo lui, è stato uno strumento perverso perché aveva fornito di un intero continente complesso con dinamiche variopinte, forniva soltanto l'immagine più semplice, cioè quella della povertà, così contribuendo a formare un immaginario cupo. Di questo immaginario facevano fatica adesso gli africani a liberarsi. E questo mi fece capire che a volte raccontare la sofferenza è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Bisognava trovare un modo, una metodologia per farlo. E questa ambiguità la sentiamo con due voci storiche che il giovane Antonio Pascal, 19enne, guardava dalla televisione. Lo so, è soltanto rock and roll, ma mi piace Mick Jagger e Tina Turner. Certo, era impossibile non dar retta ai messaggi che venivano veicolati da questa musica. E quindi Antonio Pascal, in questo lei cita questo ritornello, questo inno alla spensieratezza del rock, come appunto sintomo di schizofrenia, perché c'era la spensieratezza del rock e invece la commozione. D'altra parte la commozione di queste immagini, appunto, molto tipiche, ecco, in qualche modo, cioè, le classiche immagini che adesso siamo abituati a vedere, i bambini con la pancia avanti, sofferenti, malnutriti. E dall'altra parte sembrava che per rappresentare questo bisognava cantare una canzoncina molto divertente, allegra. Insomma, questa stonatura mi sembrava proprio questo, il confine tra rappresentazione e invasione. Ecco, ma è veramente una cifra questa della contraddizione, di questa schizofrenia che non possiamo che portarci dietro? Forse va accettata, Pascale? Non credo, nel senso che forse un intellettuale oggi, se ha ragione di esistere, ha ragione quando cerca di farci percepire la bellezza della complessità. Per fare un esempio banale, cioè non è proprio chiaro in questo momento cosa sta accadendo alla Terra, ma non è che non esiste riscaldamento, certo, la temperatura è aumentata, però non è facile, come potrebbe per esempio far Grillo, parlare con tanta sicurezza di cosa accadrà domani. Perché la scienza che studia la climatologia è una scienza ancora in formazione, bisogna unire più settori, come funziona un oceano, non è facile, come funziona l'atmosfera, non è facile, come funzionano gli venti, insomma c'è una complessità. Se noi quindi diamo spazio verso la complessità, probabilmente potremo capire meglio la situazione. Se invece pretendiamo solamente di affrontare una questione complessa sul piano emotivo, forse, sì, così semplificati, non possiamo fare altro che produrre immagini apocalittiche che ci ricordano l'imminente fine del mondo. Cioè, si vogliono in questo modo estorcere un'emozione. Secondo me, verso questa estirpazione forzata, uno può anche ribellarsi. Benissimo, e ringraziamo Antonio Pascale. Ringrazio voi, arrivederci. We are all part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the E per capire il rapporto che c'è tra beneficenza e showbiz andiamo nel cuore dell'anglosfera, che ha delle radici culturali, l'Inghilterra, e siamo in collegamento con un giornalista inglese conosciuto in Italia, molto apprezzato, corrispondente a Londra per Panorama e Il Foglio e tra i fondatori di un sito da tenere d'occhio, www.theartsdesk.com, elsiviristi e commentatori culturali dei fatti della cultura mondiale. Siamo in linea con William Ward da Londra, buongiorno. Ciao Luca e buongiorno agli ascoltatori. E allora, 25 anni fa nasceva lo showbiz, il business, lo show della beneficenza con il Live Aid di Bob Geldof. Un bilancio dall'Inghilterra dove, stando anche a una copertina di Newsweek di qualche tempo fa, la generosità sarebbe morta, non si crede più molto in queste figure sì carismatiche che convogliano molti soldi ma che poi magari non sono in grado di portare a termine i loro compiti. Beh, il caso di Geldof è ovviamente esemplare perché, ricordiamoci, era una figura abbastanza marginale, il cantante di un complessuccio, i Boomtown Rats, fra i moltissimi complessi dell'epoca punk, ma nemmeno particolarmente importante, che invece ebbe l'idea felice e molto, come dire, funzionale di formare il Live Aid e di rastrellare l'interesse di moltissimi cantanti, sia per incidere quel disco We Are The World, ma soprattutto per i concerti Live Aid che poi affascinò il mondo e diede luce a molte imitazioni qua e là, e poi più recentemente una specie di tribute a se stesso, insomma, con ulteriori concerti. Ma no, Geldof è uno che si è creato, come dire, una posizione nella società britannica, specialmente quel versante del mondo della beneficenza che in Gran Bretagna ha un'importanza molto significativa, come una delle figure principali, anche se non occupandosi più o in maniera così diretta di una cosa del genere, è evidente che la sua figura sia un po' appannata. Sì, perché i risultati, la stessa BBS in una recente inchiesta di tutti questi soldi raccolti da Bob Geldof, purtroppo si è scoperto che sono anche spesso finiti in cattive mani. Ma appunto, sulla scorta di quello che ci diceva William Ward, ci sono luci e ombre sulle star di Hollywood che fanno opere di beneficenza. Sentite un po' Sean Penn come ha preso male le critiche che gli sono state rivolte per il suo impegno ad Haiti. Does it make you angry when people talk about, you know, Sean Penn, the Hollywood star, the movie star, coming in and trying to do something, and they're kind of cynical about it? Do I hope that those people die screaming of rectal cancer? Yeah. Gli hanno chiesto se, insomma, come vedeva chi lo presentava come una star di Hollywood che andava a farsi un giro ad Haiti, e lui ha risposto alla giornalista della CBS: beh sì, devo sperare che costoro che mi criticano muoiano per un cancro al retto. Sì, William Ward, qui effettivamente o è stato punto sul vivo Sean Penn, oppure forse sente molto questa causa di Haiti, però sono parole molto forti. Sean Penn credo che sia un po' un caso eccezionale, in quanto lui non è la solita star hollywoodiana molto veluttata, molto suave, un po' come suo amico e collega rivale George Clooney, che riesce in qualsiasi momento ad essere gentile e diplomatico. Sean Penn è uno di quelle anime dannate, fra virgolette, che il cui personaggio, direi il suo brand, come diciamo in lingua inglese, il suo marchio commerciale è di fare il uomo burbero. Certo. E concluderei proprio con una critica, perché c'è anche una guerra politica poi su questi grandi numeri, questi soldi che vengono raccolti, perché assieme a Clooney, che ci citava William Ward, c'è anche un rapper dei Fugees, Wyclef Jean, che di origine caraibica si era candidato per le presidenziali haitiane e per ora invece non si potrà presentare perché non è residente da 5 anni ad Haiti. William Ward, concludendo, c'è anche un peso molto politico in questi quindi spettacoli di carità? Beh, direi sì, perché in fondo si dice spesso che la politica sia lo show business, cioè il mondo dello spettacolo, per la gente brutta. Grazie William Ward di essere stato con noi a Time Out. Okay. Il nostro Time Out sta per finire, tiriamo le somme, i concetti di beneficenza, questi grandi a volte baracconi di star di Hollywood, musicisti, sono momenti importanti per la coscienza collettiva della popolazione mondiale, ma attenzione, bisogna diffidare dai professionisti protagonisti della beneficenza che magari poi vogliono mettere a frutto politico questa visibilità mediatica, e soprattutto non mollare mai, controllare fino alla fine e vigilare che i soldi vadano alle persone a cui sono stati promessi. Io sono Luca Mastrantonio, ringrazio Alessandro Chiappini in regia, vi do appuntamento per domani sempre con Time Out.